Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mio padre si recò ad aprire i boccaporti delle stive dove erano stati rinchiusi i prigionieri e per sua grande meraviglia l'ufficiale inglese rispose con un laconico: non c'è nulla da scusarsi, a parti inverse avrei fatto le stesse cose, obbedire agli ordini. Sono Maurizio Scarano, ho 52 anni e vivo a Noventa Vicentina in provincia di Vicenza. Nell'autunno del 1917 Nando Montagnani aveva 19 anni. Appena diplomato in ragioneria a Treviso, fu chiamato all'Accademia Militare di Modena. Ebbe 3 mesi per imparare l'arte della guerra, diventare sottotenente e poi via, al fronte, sulla linea del Piave, all'indomani della ritirata di Caporetto. L'esercito italiano aveva ripiegato sulla sponda destra del fiume, sull'altra riva c'erano le armate austro-ungariche. Nando guidava un plotone di uomini e ragazzi sopravvissuti alla grande disfatta. Dovevano presidiare la riva del fiume nella zona di Pederobba. Era un inverno freddo e nevoso. Di notte Nando con i suoi soldati andava di ronda. La divisa che gli avevano dato all'accademia era già sdrucita e consumata. I suoi stivali, ormai scalcagnati, si inabissavano nelle buche fangose. Il dicembre feroce del 1917 ebbe la meglio sui piedi di Nando. Con le gambe semi-assiderate, fu trasportato in un convalescenziario nelle retrovie. Di giorno e di notte l'eco costante delle cannonate. Nando, coi piedi infagottati, pensava ai suoi uomini. Si chiedeva se fossero ancora vivi. Per riempire le giornate dei convalescenti, il comando organizzò allora una gara di cori. Nando, appassionato di musica, cominciò a mettere insieme un coro. Reclutò i più intonati e iniziò ad insegnargli «O Signor che dal tetto natio», l'aria verdiana dei Lombardi alla prima crociata, intrisa di amor patrio, nostalgia e speranza. Il giorno prima della gara si seppe che ad ascoltare i gruppi e scegliere il vincitore sarebbe stato niente meno che Arturo Toscanini, che tornato dall'America percorreva il fronte per infondere coraggio alle truppe. Il maestro arrivò, Nando, emozionato, diresse il suo gruppo e Toscanini lo proclamò vincitore. Poi la guerra finì, Nando divenne un affermato professionista ed ebbe una grande famiglia. Della guerra non parlava mai, solo al mattino, annodandosi la cravatta, canticchiava qualche aria verdiana. Nando era mio padre, repubblicano e antifascista, in prima linea nella difesa degli ebrei durante le persecuzioni razziali degli anni bui. Siamo in due posti contemporaneamente. Siamo dietro alla linea del Piave, ma siamo anche a Gerusalemme, nei pressi del Santo Sepolcro, dove i crociati stanno morendo nel deserto e inneggiano questo coro che di fatto è una preghiera. Questo è il pezzo che state ascoltando, tratto proprio da i Lombardi alla prima crociata, esattamente, ma lo ascoltiamo grazie a questo racconto magnifico che ci manda Giovanna Montagnani, che si firma 87 anni, Treviso, che è la figlia di questo Nando Montagnani, che a 19 anni vinceva davanti, grazie ad Arturo Toscanini, una piccola gara con il suo coro nelle retrovie, appunto dietro alla linea del Piave. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24. Oggi abbiamo aperto con una storia, come stiamo facendo in questi giorni in cui raccontiamo storie di guerra, con una storia legata alla Prima Guerra Mondiale. L'avete sentita e ringrazio ancora Giovanna Montagnani, la figlia di Nando, per avercela mandata. E a breve ne sentiremo un'altra di storia che però riguarda la Seconda Guerra Mondiale. e che sembra una storia di presa in giro, sembra proprio una storia di due che cominciano a fare, di due fratelli che cominciano a fare la guerra, riescono a scappare, quando tutto sembra finito, vengono presi e la guerra per loro non è ancora finita. Prima di cominciare con questa storia vi ricordo che se volete leggere, non solo ascoltare le storie che vi raccontiamo e che andremo avanti a raccontarvi fino a fine luglio e poi da settembre, potete scaricarvi il nostro ebook che è gratuito e lo trovate più o meno su tutte le piattaforme, Amazon, iTunes o altrimenti attraverso il sito di Radio 24 alla nostra pagina Voi Siete Qui. È il terzo, è la terza stagione di Voi Siete Qui ed è il terzo ebook. Ve lo scaricate gratuitamente e ve lo portate al mare, vi leggete 97 storie. Adesso ce n'è una di storia, parla della Seconda Guerra Mondiale e ce la racconta Maurizio. Mio padre con il fratello, classe 1919, erano due giovani ragazzi che vivevano la loro gioventù in una cittadina del sud, Nocera Inferiore, dove la famiglia aveva un'attività di pastificio e pertanto per molti anni della loro vita avevano condotto un'esistenza più che agiata. Poi vicissitudini legate strettamente al settore del prodotto trattato, la pasta non era ancora quel prodotto di massa e di larga diffusione che è oggi, e soprattutto vicissitudini familiari, avevano portato i due ragazzi, ormai arrivati ad età per la ferma di leva, a scegliere i territori coloniali per svolgere il servizio di leva. Questo avrebbe permesso di guadagnare qualche soldo in più a beneficio della famiglia. Dopo un breve periodo in Italia, nel 38-39, furono destinati entrambi nei territori italiani in Libia, dove iniziarono il loro servizio attivo nel corpo genieri come radiotelegrafisti. Inutile dire che la loro permanenza in Libia si prorogò anche oltre la ferma, per l'entrata in guerra dell'Italia nel conflitto mondiale. Ma erano persone, come ho scritto, molto pragmatiche, molto consapevoli, insomma, della difficoltà che avevano attraversato, ma insomma non facevano pesare più di tanto, insomma, quando raccontavano queste cose, anzi mettevano sempre in risalto gli aspetti positivi più che negativi. Dopo 4 anni passati tra Tunisia e Libia, all'inizio del 43 furono destinati, sempre insieme, al comando di una scorta per il trasferimento di 500 prigionieri alleati in Italia tramite trasferimento marittimo. E dopo le consuete pratiche iniziarono il loro viaggio per Napoli con il carico umano da sorvegliare. Il viaggio durò circa una settimana, tra timori e paure di essere silurati da qualche nave alleata. Li animava però l'impazienza e il desiderio di tornare finalmente a casa dai loro cari dopo tanto tempo. In effetti, come temuto, ci fu una situazione di effettivo pericolo nel corso della traversata. Non so se furono effettivamente silurati o mitragliati da aerei nemici, mio padre era vago in alcuni ricordi. Penso perché alcune cose spiacevoli si rimuovono dalla mente. Comunque, per ordini ricevuti in qualità di responsabile della scorta, mio padre dovette, suo malgrado, procedere alla chiusura delle stive, dove erano dislocati i prigionieri. Così, pur resistendo ad un suo conflitto interno, se quello da fare fosse o meno giusto, e le conseguenze che questo significava in caso di affondamento della nave, con la morte certa di tutte quelle persone nelle stive, ecco, nonostante tutto, eseguì gli ordini che gli erano stati comunicati alla partenza. Interminabili minuti e lo scorre nella mente di ogni uomo su quella nave, in ogni istante della sua vita, di quella che sarebbe potuta essere la sua vita se solo si fosse superato quel momento. Preghiere e voti penso si siano alternati a silenzi assordanti. Poi, per pura fortuna, il pericolo passò e la loro traversata continuò inesorabile. È la vita che va, è la vita che va, è la morte che viene, ma un tenore di morte, un lusso che non mi appartiene. In fondo alla notte è la fine del viaggio, una vita al di là del male e del peggio, e canto na na na na na na. Dai racconti di mio padre, quello che enormemente lo colpì di tutta questa vicenda fu che dopo lo scampato pericolo, immediatamente si recò ad aprire i boccaporti delle stive. Lì erano stati rinchiusi i prigionieri e lui, quasi a giustificarsi con il più alto in grado di quei prigionieri per la chiusura di quei lucchetti, ci tenne a dire nel suo maccheronico inglese che se la nave fosse stata colpita, lui avrebbe provveduto ad aprire le stive immediatamente per permettere ai prigionieri di mettersi in salvo. E per sua grande meraviglia, l'ufficiale inglese rispose con un laconico: «Non c'è nulla da scusarsi. A parti inverse avrei fatto le stesse cose, obbedire agli ordini». Mio padre ricordava sempre con piacere questo episodio, penso soprattutto per il buon esito, ma anche per l'ammirazione che nutriva per quell'ufficiale inglese, che con il suo comportamento quasi l'aveva assolto per decisione. Del resto, le guerre mettono a crudo la spietatezza delle azioni. Comunque, arrivati a Napoli e consegnati ai prigionieri, e dopo un periodo di licenza da passare a casa con i propri cari, sempre insieme al fratello gemello, vengono destinati al comando di Firenze, in attesa di una destinazione definitiva. Nell'estate del 43, quindi, i due ragazzotti arrivano a Firenze. Lì la guerra sembra lontana, e le voci su una possibile fine anticipata del conflitto circolavano. Certo, le aspettative e il desiderio di quello che poteva accadere da lì a poco erano enormi, forse anche maggiori di quanto realmente la situazione potesse indicare. Fatto sta che arriva l'8 settembre. Le radio e il comando danno la notizia dell'avvenuto e sospirato armistizio. L'ordine all'interno della caserma era trattenuto a stento. Le fantasie prendevano corpo nelle menti dei giovani soldati e tutti già pregustavano il modo più veloce per ritornare a casa. Non solo hanno attraversato quel periodo di quel periodo della loro vita sempre unita, ma anche poi in seguito sono stati sempre molto uniti. La vita però a volte è spietata e alterna grosse gioie a forti delusioni. Così il giorno dopo, il 9 settembre del 43, in una splendida e soleggiata mattina fiorentina, entrano dal portone principale della caserma una colonna di mezzi militari tedeschi che intimano l'ordine di deporre le armi. L'intera compagnia, priva di ordini e indicazioni, si arrese e mio padre, con suo fratello, il 10 settembre del 43, furono caricati su un treno merci insieme ad altre migliaia di ragazzi ed iniziarono il loro viaggio in Germania, nei campi di concentramento. Questo soggiorno per mio padre e mio zio durerà due lunghissimi anni, incredibilmente senza mai separarsi, in campi di lavoro, in condizioni disumane, convivendo ogni giorno con la paura di non farcela. Lì i rapporti si saldano nella tragedia e nelle difficoltà. Lì la solidarietà fra persone sembra impossibile, ma diventa improvvisamente realtà. Un viaggio che purtroppo tantissimi giovani ragazzi hanno concluso in modo tragico. Invece per mio padre e mio zio terminò nel maggio del 45, ad opera di un reparto americano. Da lì a poco gli avvenimenti che si susseguirono li portarono a fare il ritorno e ci misero più di un mese ad arrivare a casa, con tutti i mezzi leciti e non, a piedi, in bici, in treno. Logicamente le mie domande su quel periodo erano insistenti e alle mie curiosità facevano seguito sempre aneddoti e ricordi. Ho sempre pensato che raccontasse solo episodi per così dire leggeri, mio padre, avendo probabilmente rimosso tutti quelli dove la sofferenza e l'umiliazione erano presenti. È vero anche che non ho mai sentito, mai, un accenno di acredine nei confronti di nessuno, né tantomeno dei soldati tedeschi. Penso che volesse trasmettermi qualcosa con quel suo comportamento in quelle vicissitudini. L'essere pragmatico l'aveva portato a vivere la sua vita e in particolar modo quell'esperienza con enorme dignità, consapevole di aver vissuto in un periodo enormemente tragico. E sono due le foto che ci ha mandato Maurizio e che raffigurano il suo babbo. In una, in quella di destra, andate a vederle perché sono davvero impressionanti. In quella di destra lui è elegantissimo, in divisa, proprio davanti alla macchina fotografica, con quel cappello che credo dessero a quelli che erano in missione dalle parti del deserto. In quella di sinistra invece lui è magrissimo, ha giusto dei baffi, ha i capelli tirati indietro ed è chiaramente in prigionia. Pronto Maurizio, buongiorno. Salve, buongiorno, ciao Matteo. Grazie mille per averci mandato questa storia che come tutte queste che abbiamo raccontato in questa settimana sono davvero incredibili. Me la spieghi tu meglio questa foto? In quella di destra lui chiaramente è prima della partenza, giusto? Sì, in quella di destra è insomma appena insomma arruolato, certo, per la partenza. Quindi 19 anni più o meno? Sì, sì, circa 19 anni, circa 18-19 anni. In quella di sinistra, dove lui ha credo 10 kg in meno, dove si trova? In quella di sinistra invece si trova a Norimberga. Norimberga, ed è un tesserino, la foto di un tesserino di una fabbrica dove i militari, i prigionieri venivano impegnati come forza lavoro. Maurizio, tra l'altro tu mi hai mandato nella mail in cui hai legato questa storia la spiegazione di tutta questa cosa, che io devo dire per la solita grande ignoranza non sapevo, nel senso che il tuo zio e tuo papà sono appartenuti a una categoria vera e propria, che era internati militari italiani, giusto? Sì, sì, perché praticamente tutti i prigionieri italiani hanno avuto questo status giuridico, che c'è una grande confusione riguardo a questo. Certo. Praticamente nessuno è stato inquadrato come prigioniero di guerra, per cui con tutto quello che ne concerne, la Convenzione di Ginevra, i pacchi della Croce Rossa, eccetera, un certo tipo di trattamento. Mentre gli internati militari erano una situazione ibrida, non si sapeva se erano, erano internati perché prigionieri, ma non prigionieri di guerra, per cui avevano questo status ibrido che non si è mai capito quale effettivamente fosse. Ed erano 800.000? Sì, forse anche qualcuno in più, stime ufficiali non ce ne sono, si pensa che siano circa 1 milione, però di questo milione, certo, poi una parte aderì al... Perché in effetti quando venivi imprigionato ti mettevano di fronte a una scelta: se collaborare con i tedeschi, con l'esercito, chiaro, tedesco, chiaro. Oppure... oppure, e perciò godere di certi privilegi, benefici, chiaro, chiaro, chiaro, migliore, e qualcuno per opportunità, logicamente, non per accettato, scelta, ovvio, ha accettato, e altri invece che hanno detto no e sono rimasti in quello stato di prigioniero di limbo. E mi scrivevi anche che solo nel 2006 c'è stata una legge che ha riconosciuto con una medaglia, poi, no? Sì, che ti è arrivata, sì, anche, giusto? Sì, dietro, cioè, così scartabellando in internet, come sì, qualche volta si fa, avevo letto, c'è un'associazione, mi informo sempre, ma giusto per mia conoscenza così personale, certo, e c'era un modulo di domanda dove bisognava presentare un certo tipo di documenti, insomma, che comprovavano questa prigionia. Io l'ho inviata e mi è stata assegnata sta medaglia alla memoria, logicamente. Ovviamente. Da quanto non c'è più tuo papà? Mio padre da 10 anni, mentre mio zio è morto quest'anno, a febbraio di quest'anno. Senti, loro erano spesso insieme, cioè questo rapporto tra di loro continuava, cioè nella loro vita è continuato, oppure poi hanno preso strade diverse? Ma strade diverse, perché la vita ti porta ad avere esperienze diverse, però praticamente in simbiosi tutta la vita. Loro si sono accompagnati per mano sia in Libia, sia in Germania e sia anche dopo la guerra. Sono stati molto uniti come fratelli, forse come tutti i gemelli, insomma. È singolare il fatto che abbiano passato sia 4 anni di guerra, certo, e di prigionia insieme. Maurizio, io ti ringrazio davvero tanto per la storia e per la chiacchierata, davvero, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille a te, grazie. Ciao, a presto, ciao, grazie. Ciao. E questa è una di quelle storie che è una banalità, però quando si dice la storia è fatta anche di questo, la storia è anche fatta di una roba che ti arrivano, che ti dicono che è finita, e tu sei a Firenze, sei a 400 km da casa tua, e il giorno dopo arrivano degli altri che ti dicono no, non è finita, adesso venite con noi, e fai due anni in un campo di concentramento in Germania. Non la smetteremo mai, vero, di dire che la guerra è una roba schifosa e che non c'è una ragione al mondo per farla, cioè non ce n'è una proprio, probabilmente, ma anche a pensarci, aspetta, ci provo un po', no, non c'è, proprio non c'è, e questo, diciamo, lo afferma anche tutta la redazione pacifista suona male, perché sennò poi, come diceva Don Alberto Brentegani, il mio insegnante di matematica alle medie, che era prete, qualche schiaffone ogni tanto ci sta, però anti-interventista e antimilitarista, diciamocela così, la redazione di Voi Siete Qui. Io ringrazio comunque, appunto, tutti gli anti-interventisti di là dal vetro, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Pietro Lacorte. Ringrazio soprattutto Maurizio, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa.